Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Priscilla. Ben ritrovate e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, in onda il sabato alle 14 su Radio Città Fujiko e disponibile a partire da lunedì, grosso modo, in podcast sul nostro sito www.radiovanloon.info. Allora, questa è una settimana molto importante, l'avrete visto dalla stampa, le programmazioni radiofoniche televisive, anche le programmazioni della nostra radio. Una settimana il bombardamento sui social network, vogliamo parlarne? Io ascolto solo Radio Città Fujiko e Radio Radicale, quindi non saprei. E no, è una settimana molto importante perché è il 50° anniversario di Piazza Fontana. Naturalmente noi non potevamo non parlarne, anzi ne abbiamo deciso di parlare, perché quel 12 dicembre 1969 quella bomba esplosa alle 16:37, che ha lasciato sul pavimento di Piazza della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana 17 vittime e 88 feriti. Poi anche sul conteggio delle vittime si potrebbe parlare. Naturalmente ha rappresentato qualcosa da cui è impossibile tornare indietro. Una bomba piazzata da un gruppo dell'estrema destra eversiva, Ordine Nuovo, di cui ci siamo occupati qualche puntata fa con Elia Rosati. Una bomba mano fascista pagata da chi? La vecchia canzone diceva pagata dai padroni. Le bombe le mettono i fascisti e le pagano i padroni. Naturalmente la realtà è un po' più sfumata, ma non si distanzia troppo da questa, perché nel lungo processo che seguì alla bomba a Piazza Fontana, la bomba alla Banca dell'Agricoltura, sono venuti fuori molti. L'indagine è andata molto in alto, ha toccato vertici dello Stato italiano e c'è una bellissima puntata di Wikiradio di questa settimana del 12 dicembre, per l'appunto, che racconta l'iter processuale, che vi invitiamo ad andare a recuperare, e che racconta come su quei banchi di Catanzaro, dove era stato spostato il processo, sono passati volti molto noti dello Stato, dei servizi segreti, che se non erano consapevoli non hanno fatto nulla per impedirlo. Ecco, noi allora faremo una brevissima rassegna degli articoli e dei libri soprattutto più interessanti che sono usciti, e poi andremo a intervistare una delle autrici di uno dei libri più importanti che sono usciti quest'anno, perché in occasione ovviamente di un 50° anniversario c'è una produzione letteraria e della stampa fuori misura, forse in questa occasione anche eccessiva. I più interessanti, partiamo da Paolo Morando, che ha scritto per La Terza, pubblicato quest'anno, il libro intitolato Prima di Piazza Fontana, la prova generale. La prova generale perché, ci spiega l'autore, Piazza Fontana è l'ultimo episodio di una strategia di attentati e bombe piazzate prima alla Fiera Campionaria e alla Banca Nazionale delle Comunicazioni di Milano, e poi ad agosto, quando vengono rinvenuti due ordigni inesplosi tra la stazione di Milano Centrale e Venezia Santa Lucia. Morando ci mostra che l'impianto accusatorio, quindi alla presenza voluta anche da Calabresi, che si scatena nei confronti appunto degli anarchici prima ad aprile e poi ad agosto e infine a dicembre con la strage di Piazza Fontana, faceva parte, quindi era una continuazione, diciamo un progetto che partiva ad aprile e finì a dicembre, ed era la continuazione di quello che aveva portato all'arresto e anche al maltrattamento, se non proprio alla tortura, degli anarchici Paolo Braschi, Tito Pulcinelli, Angelo Della Savia, Giuseppe Norce e Clara Mazzanti, e poi il coinvolgimento dell'editore Gian Giacomo Feltrinelli sia per le bombe di aprile che per le bombe di agosto. In particolare le bombe del 12 dicembre hanno a che fare, però dialogano con un clima particolare. Come diceva Fai prima, infatti niente sarebbe stato più come prima, perché prima c'era un clima caldissimo. La bomba del 12 dicembre dialogava con la protesta operaia dell'autunno caldo del 1969, e questo ce lo ricorda bene anche lo scrittore e giornalista Claudio Pierzanti in una bella recensione a un altro libro interessante che è uscito quest'anno, che è La bomba, 50 anni di Piazza Fontana, uscito per Feltrinelli di Enrico De Aglio. E il pregio di questo libro, che vi invito a leggere, è che pone anche un'attenzione particolare alla riserva nei confronti dell'influenza che la bomba suscitò nella produzione artistica e letteraria del periodo successivo. Allora, breve pausa musicale adesso. Innanzi ricordiamo che domani c'è l'ultimo degli appuntamenti del ciclo di iniziative organizzate da Vaga 61, Centro Documentazione Lorusso Giuliani e Circolo Anarchico Berneri, dedicato all'anniversario, al 50° anniversario. Quindi domani sera alle ore a partire dalle ore 19 presso il Circolo Anarchico Berneri di Piazza 6 di Porta Santo Stefano, l'ultima parte del percorso, con testimonianze e un intervento di Daniele Barbieri. Adesso in musica e poi sentiamo l'intervista. Andiamo a ragionare con Sara Troglio, autrice insieme a altri, diciamo, tre diverse generazioni di storici, proprio della dimensione dell'uso pubblico e abuso della storia di Piazza Fontana del 12 dicembre 69. Ciao Sara, benvenuta. Ciao, grazie per averci invitati. Grazie a te per la disponibilità. E infatti volevamo parlare proprio con te di un tema, insomma, che a noi ci sta molto a cuore, anche perché appunto siamo un progetto di Fabbrichi Esteri sostanzialmente, e quindi vorrei chiederti appunto un po' di questo libro che avete appena pubblicato. Adesso tu sei, Sara Troglio, tra le autrici insieme ad Aldo Giannulli, Davide Conti, Elia Rosati, Giulio D'Enrico, Elio Catania, Erika Picco e Fabio Vercilli, di Dopo le bombe, Piazza Fontana e l'uso pubblico della storia. Ha una bella postfazione dello storico bolognese Mirko Dondi ed è uscito per Mimesis proprio questo anno. Se ci puoi un po' raccontare insomma, come è nato questo progetto e che cosa vuole aggiungere al dibattito. Allora, questo progetto di Dopo le bombe, Piazza Fontana e l'uso pubblico della storia vuole proprio collocarsi sul dopo, quindi andare a riflettere a questo 50°, quindi a questo appuntamento importante che, ripeto, nella storiografia contemporanea il mezzo secolo porta anche un po' porta un po' a riflessione, porta anche all'uscita di molti testi, andare a riflettere tutto quello che è successo dopo. Quindi questi 50 anni cosa hanno comportato a livello di cambiamento dell'opinione pubblica, a livello di diffusione di questa storia, di questa vicenda anche nella sua pedagogia pubblica, e soprattutto fare una sorta di sunto, quasi ad uso e lascito per gli storici più giovani, quelli che si approcciano al tema. E giustamente appunto l'elenco degli autori è lungo, ma per noi ha voluto anche essere una sorta di passaggio di consegne, Ci sono tre generazioni di storici che hanno lavorato questo testo, e appunto Aldo Giannoli, e possiamo mettere anche in questo elenco Mirko Dondi, che hanno iniziato questo lavoro e sono approcciati a questo tema nel momento in cui tutto era in definizione, in cui gli archivi dovevano essere aperti, in cui ancora le vicende giudiziarie si stavano dipanando. Poi c'è invece quella seconda generazione, che con Davide Conti e Elia Rosati, che si pone un po' a cavallo di chi ha iniziato questo approccio nel periodo del suo quarantesimo. Quindi un periodo in cui i processi stavano andando a chiusura e in cui il discorso pubblico stava subendo un mutamento che era legato anche allo scenario politico italiano, che era differente da quello attuale, ma appunto parimenti complesso. E poi quest'ultimo, appunto l'ultimo gruppo, che è anche il gruppo che fa riferimento al Laboratorio Lapsus, che proprio 10 anni fa è un'associazione che è nata nel silenzio dell'Accademia su questo tema. Eravamo appena entrati all'interno dell'Accademia, tutti milanesi legati in qualche modo a questa storia, sia per cittadinanza che anche per militanza, per avvicinanza a un certo mondo, e da giovani storici ci rendevamo conto che questo argomento, l'argomento di Piazza Fontana nello specifico e della strategia della tensione, se nella città stava avendo un eco, nelle nostre aule, nelle accademie, non stava avendo il riscontro che avremmo voluto, non stavamo ricevendo le domande, che appunto le risposte alle domande che ci facevamo. E quindi abbiamo iniziato a lavorare su questo, e in questi 10 anni abbiamo avuto da un lato la costanza, dall'altro anche la fortuna di poter continuare a lavorare su questo tema, e questo libro arriva un po' a assunto di tutto questo lavoro, quindi diciamo che insegue questi due anniversari. Ho capito. Senti, infatti inseguendo questi due anniversari, però abbiamo trovato, perlomeno dal mio punto di vista, un elemento veramente insolito e nuovo, e vi ringrazio anche per averlo fatto. Cioè, vi siete anche posti il problema di come la trasmissione della memoria a scuola, e quindi non solo insomma dall'ambito degli storici al general public, come si dice in inglese, ma insomma dagli storici agli studenti, vi siete posti il problema appunto di come il 12 dicembre 69 viene raccontato e trasmesso, e questo in particolare insomma è il tuo lavoro insieme a Erika Picco, che è un saggio all'interno del libro. Ce ne puoi parlare? Certo, il saggio che appunto ho curato con Erika Picco vuole porsi all'interno del discorso della seconda parte del libro, che è proprio focalizzata sull'uso pubblico della storia, e di questa storia nello specifico, e quindi come nei media, come all'interno della cinematografia, della TV pubblica e appunto anche del manuale, questa storia viene, o meglio, non viene raccontata. Lo studio è nato da, appunto, come dicevamo prima, 10 anni di attività anche nelle scuole, in cui se da un lato riscontravamo interesse sul tema, dall'altro trovavamo spesso e appunto anche in continuità le stesse domande e le stesse anche false informazioni storiche sul tema. Quindi questa richiesta che arrivava anche dal mondo della scuola, da un lato di avere un'indicazione su degli strumenti che fossero appunto potessero essere utilizzati, che potessero essere considerati scientificamente attendibili, e dall'altro avere anche una possibilità di un travaso, perché se il mondo accademico, il mondo degli storici è andato avanti sul tema, molto spesso il mondo scolastico è rimasto indietro, proprio perché questo travaso di conoscenza attraverso corsi di aggiornamento, e adesso che arriviamo al focus specifico del nostro saggio sui manuali, non è preceduto. Appunto, proprio approcciandoci allo studio dei manuali, abbiamo visto come molto spesso vengano portate avanti delle visioni che, se non errate, sono comunque estremamente antiquate, mi verrebbe quasi da dire. Appunto, il manuale è stato scelto perché non solo è, diciamo, si può essere considerata la visione che lo Stato dà alla sua storia, la, diciamo, versione ufficiale che viene poi proposta all'interno delle scuole, ma in questo momento è anche, a fronte del taglio delle ore dell'insegnamento di storia, a fronte anche dei di programmi che vanno ad allargarsi e che portano il professore a non poter, proprio per effettiva mancanza di tempo e di spazio, portare avanti tutti gli elementi del programma, portano a delegare al manuale. Il manuale di fatto diventa il sostituto principe, il supplente della lezione di storia. E quindi per approcciare quello che intuivamo essere appunto un elemento che poteva rivelarci molte informazioni su quale fosse la percezione all'interno del mondo scolastico del tema, ci è stato rivelato da un questionario che abbiamo portato avanti quest'estate tra i professori degli istituti di secondo ordine superiori, quindi sia istituti che licei, e loro stessi ci hanno appunto confermato che il manuale non solo aveva questo ruolo, ma che la maggior parte di loro, una percentuale molto ampia, il tema della strategia della tensione e più in modo più ampio del dopoguerra italiano, del periodo della guerra fredda, lo delegava quasi interamente al manuale per mancanza di tempo. Senti Sara, andiamo in conclusione un attimo e volevamo chiederti, ecco, proprio una breve battuta, se puoi, da milanese, anche che secondo te, insomma, qual è un po' la diversità dell'anniversario, nel 50° anniversario della strage di Piazza Fontana rispetto agli anni precedenti, viste anche le dichiarazioni di Giuseppe Sala e del Presidente della Repubblica Mattarella sui fatti, e appunto qual è un po' lo stato di salute della memoria, proprio il rapporto di Milano con la memoria del 12 dicembre? Allora, il rapporto sicuramente di Milano con la memoria del 12 dicembre è un rapporto complesso, perché complessa è la dinamica e la vita sociale e politica della città. Da un lato si può dire che da 50 anni a questa parte c'è una parte della città che considera questa una sua storia, quasi per alcuni una storia fondativa, e quindi viene portata avanti con celebrazioni che sono diventate quasi una ritualità collettiva e che quindi continuano a procedere e continuano ad avere i suoi appuntamenti cadenzati. Anche a questo 50° come appunto se... ricordandomi del 40° abbiamo avuto assemblee, abbiamo avuto mostre, abbiamo avuto incontri, dibattiti all'interno dei luoghi sociali della città. Dall'altro lato invece, rispetto al 40°, cambiato anche il clima politico della città, c'è stato un cambio di discorso. Se 40 anni fa avevamo una Piazza Fontana chiusa alla transennata e quindi anche un'opposizione violenta, una manifestazione in quel caso dei movimenti sociali che va a occupare la piazza chiusa dall'autorità, quest'anno c'è stato un inserimento del discorso del comune all'interno delle celebrazioni, con appunto delle differenze di distinguo. Quindi se abbiamo avuto un riconoscimento del comune, anche una presa di posizione e delle scuse poste dal comune alla famiglia Pinelli con la dedica di un chip e di un albero nei giorni scorsi, e ad esempio l'uso del termine strategia della tensione da parte del presidente Mattarella, dall'altro abbiamo degli elementi che ci fanno notare come il discorso comunque continui a viaggiare su un non detto. Prendo l'esempio, mi riferisco appunto alle pietre che sono state poste in Piazza Fontana. Su queste pietre compare appunto, su questo monumento che dedica 17 formelle ad ognuna delle vittime dell'esplosione e una 18ª in cui viene spiegato l'evento, in realtà ciò che viene scritto è ordigno collocato dal gruppo terroristico Ordine Nuovo. A questa definizione manca tutta la parte successiva che rende così particolare e pregnante l'evento di Piazza Fontana, ovvero tutto quello che fa riferimento a quelle che sono l'inserirsi di questa strage all'interno della strategia della tensione, all'interno di una strategia approvata e voluta dagli organi dello Stato, dai suoi esponenti, dai suoi funzionari. Certo, come se fosse un unicum staccato da un contesto bollente, insomma. Esattamente, quindi vedremo nei prossimi. È interessante comunque, io ti ringrazio molto Sara, perché potremmo andare avanti all'infinito a parlare di questa cosa, visto l'interesse che noi abbiamo, ma ci dobbiamo abbandonare, altrimenti la puntata è finita. Grazie. La polizia te sta extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuevo. nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Bene, allora, secondo ospite della puntata è Antonio Senta, per noi Tony, vecchio amico di Walloon, nostro ospite l'anno scorso per parlarci della storia dell'anarchismo. Un po' di tempo fa l'avevamo intervistato per raccontarci del ruolo degli anarchici all'interno della rivoluzione russa con il libro di Volin, che vi invitiamo ad andare a recuperare. Ciao Tony, ben trovato. Ciao, ciao. Allora, qua ci rivolgiamo all'Antonio Senta storico e all'Antonio Senta storico militante, naturalmente. Ci puoi raccontare quella che è stata la recezione di questo 50esimo anniversario della strage? Come viene interpretato a 50 anni di distanza la strage di Piazza Fontana? Ma a me pare, insomma, che ci siano due interpretazioni possibili di fatto. Non totalmente opposte, però sicuramente diverse. Io ho riflettuto molto nei giorni precedenti e seguenti il 12 e mi sembra abbastanza evidente questo. Allora, da una parte c'è un'interpretazione secondo cui Piazza Fontana rappresenta diciamo il momento di arresto delle lotte studentesche, delle lotte operaie in particolare, cioè si mette uno stop in qualche misura. Effettivamente questo comporta un arresto della crescita dei consensi della sinistra, e effettivamente a me pare di capire che le riforme, le varie riforme portate avanti dai primi anni 70, ne dico una su tutti, lo Statuto dei diritti dei lavoratori, viene approvato in prima lettura dal Senato proprio il 12 dicembre, prima dell'attentato, cioè la mattina, no? L'attentato di pomeriggio. Ecco, queste altre riforme sono zoppe, sono azzoppate, come ebbe a definirle anche in un suo bel libro Guido Krains, ex, diciamo, del movimento studentesco di Pavia e adesso del Partito Democratico, e da storico appunto analizzò queste riforme definendole zoppe. Quindi effettivamente questo stop, ecco, ci fu. Da questo punto di vista la bomba avrebbe vinto. Ma non solo la bomba avrebbe vinto, la bomba sarebbe riuscita anche a diciamo trasferire il conflitto dal terreno sociale a quello paramilitare, evidentemente su un terreno favorevole, diciamo, allo Stato e alle forze dello Stato. Questo portato avanti lungo tutta la strategia della tensione fino almeno all'84, strategia delle stragi, dovremmo dire, almeno 360 vittime, almeno 4500 feriti, e poi a me viene da dire anche dopo, cioè in fondo Napoli 2000 e Genova 2001 che cosa sono se non forme di terrore diversamente concretizzate. Questa è la prima interpretazione. La seconda invece mi pare che sia quella che va per la maggiore al momento, cioè le bombe non avrebbero raggiunto lo scopo, nel senso che se lo scopo era quello di un colpo di Stato o comunque di un giro di vite in senso fortemente autoritario, questo giro di vite non c'è stato. E quindi diciamo la democrazia ha vinto, la parte sana dello Stato ha vinto, la società civile ha vinto. Mi sembra che questa sia l'interpretazione che va per la maggiore in questo cinquantesimo, che è quella anche che trova diciamo la congiunzione tra queste istituzioni che a 50 anni di distanza hanno diciamo finalmente, se vogliamo, chiesto scusa, e ampi settori della società civile che effettivamente si ritrovano in questa lettura. Sì, no? Sinceramente mi sembra più ricca di indicazioni la prima rispetto alla seconda, mi sembra che siano in campo tutte e due, ecco. Sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Commissario, gliel'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo attentato, fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti apriam la finestra, quattro piani son duri da far. Bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato.